English Bit di Giulia Crivelli. Question: consumers questions worth of top-end tablet computers as sales fall dramatically. Nei giorni scorsi tutti i quotidiani inglesi si sono occupati dei dati sulle vendite di PC, tablet e telefoni cellulari di ultima generazione. Il titolo del Guardian in particolare si concentra sulle tavolette, come si era tentato di chiamare i tablet al debutto sul mercato italiano. I consumatori mettono in dubbio il valore dei tablet computer alla luce del drammatico calo di vendite. La parola che ci interessa di più è question, usata non come sostantivo ma come verbo transitivo regolare: to question, questioned, questioned. Oltre a mettere in dubbio, può avere altri significati e può essere usato con apposite preposizioni. She was arrested and questioned for hours about the murder. Fu arrestata e interrogata per ore sull'omicidio. The students were questioned on the books they had been studying. Gli studenti furono interrogati sui libri che avevano studiato. Se invece consideriamo il sostantivo, la traduzione principale è domanda, ma ci sono altre sfumature. The question is, how much are they going to pay you? Il punto è, quanto ti pagheranno? Notiamo qui la costruzione del futuro. Si può sempre usare will oppure il gerundio di go, che implica in genere qualcosa di definito da altri. We will follow the rules non è esattamente lo stesso di we are going to follow the rules. Tornando a question, ci sono le espressioni più facilmente traducibili in italiano. He put a question to the minister about the recent reform. Fece al ministro una domanda sulla recente riforma. La scelta del verbo put anziché di ask dà un'idea di urgenza, impellenza, necessità di avere una risposta, ma non finisce qui. Si può dire ad esempio the future of public transport is not in question. Il futuro del trasporto pubblico non è in discussione. O ancora, there is no question of him cancelling the trip so near to the departure date. Non c'è possibilità che lui cancelli il viaggio così vicino alla data di partenza prevista. Da question viene anche question mark, punto interrogativo, e questionable, aggettivo che in italiano possiamo tradurre con discutibile. Her motives for helping her sister are questionable. I motivi per i quali ha deciso di aiutare sua sorella sollevano qualche dubbio.